Abbiamo messo in luce una serie di discrepanze, di disuguaglianze che riguardano la maggioranza delle persone di questo pianeta, ossia le donne, dal punto di vista dell'uguaglianza sociale, economica. Un dato che fa impressione più di altri è che solo 8 stati dell'Unione Europea prevedono leggi contro la violenza sessuale che qualificano come stupro una relazione sessuale in cui non sia espresso il consenso da parte della persona stuprata. Non c'è solo questo, c'è la repressione nei confronti di chi difende i diritti umani, con decine di attiviste messe in carcere in Iran, con 8 di loro in Arabia Saudita che sono dietro le sbarre, e poi ci sono i numeri impressionanti dei conflitti, il numero delle vittime civili tra morti e feriti che arrivano a 17.000 nello Yemen, 10.000 feriti uccisi ogni anno in Afghanistan, i 2.100 morti in mare nel Mediterraneo durante l'anno, cifre che raccontano di un mondo che tradisce ampiamente il contenuto, lo spirito, i principi e gli obiettivi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Visto che questo appunto è il rapporto che voi avete presentato in occasione del 70° anniversario, ma anche se è un po' diverso quello di quest'anno, è un'abitudine vostra quella di fare un rapporto ogni anno, e quindi volevo chiederti per prima cosa un confronto, diciamo, sia a livello internazionale ma anche poi a livello nostro in Italia, sulla situazione dei diritti umani rispetto anche al trend degli anni passati, diciamo. Ma direi che c'è continuità sia a livello globale che a livello nazionale, perché se prendiamo questi ultimi 2 anni, 17 e 18, vediamo che sul piano globale è proseguito l'uso ulteriormente diffuso, anzi, di questo linguaggio divisivo, intriso di odio, di razzismo, quest'anno più che mai di misoginia. I conflitti non si fermano, ne scoppiano di nuovi, c'è questa situazione drammatica dei Rohingya in Myanmar che rischiano di rientrare nel loro paese trovando case bruciate, villaggi distrutti, una situazione di apartheid. E per quanto riguarda l'Italia, alla fine sono stati 2 anni in piena continuità, perché quest'anno è stato portato a termine quel disegno, quel progetto politico che intendeva affidare e ha affidato alla Libia il compito di fermare le partenze di migranti richiedenti asilo attraverso il Mediterraneo. Da ultimo questo disegno che colpisce così tanto a fondo i diritti dei migranti e richiedenti asilo ha trovato compimento col decreto sicurezza approvato recentemente. E invece un altro punto che avete sottolineato è stato il fatto che il 2018 è stato un po' l'anno delle battaglie transnazionali delle donne e per i diritti, diciamo, delle donne, per la parità di genere, anche poi in realtà in una chiave più ampia, quindi anche per i diritti delle persone LGBT, eccetera. Sì, ci sono naturalmente delle ragioni in negativo che spingono milioni di donne a protestare. Queste ragioni chiamano in causa leadership maschili, chiamiamole così, cattiviste, che vogliono mostrare il volto duro, il pugno di ferro in generale, ma anche attraverso l'espressione di un discorso misogino, attraverso leggi o proposte di legge che vogliono ridimensionare e sottrarre diritti nel campo sessuale e riproduttivo. E poi ci sono state anche delle conquiste, come in Irlanda finalmente la possibilità di avere accesso a servizi gratuiti e sicuri di interruzione della gravidanza, proposta di intuzzate come quella sull'aborto in Polonia, che per fortuna non ha avuto seguito grazie all'enorme protesta delle donne, e poi la mobilitazione contro la violenza sessuale, anche qui scatenata da sentenze vergognose degli ultimi tempi in Spagna e Irlanda, che ha spinto di nuovo tante persone in piazza. Questo attivismo delle donne per i loro diritti è qualcosa di veramente importante. Forse una cosa particolarmente interessante di questi anni, poi vabbè, lo dico a te, insomma, Amnesty International è caratterizzata da questa cosa, come buona parte delle ONG, però insomma la lotta per i diritti umani sembra essere sempre più chiaramente sovranazionale, mentre dall'altra parte la resistenza è quella di un ritorno un po' anche a un sovranismo in qualche modo. È un'ottima osservazione questa, sì, è transnazionale la lotta contro il sovranismo, che è un fenomeno locale, però se analizziamo le politiche contro le ONG di criminalizzazione, di chiusura degli uffici, di minaccia di farlo, vediamo che anche lì è un fenomeno globale, perché limitandoci soltanto ad Amnesty International, quest'anno abbiamo avuto irruzioni pretestuose da parte della polizia in India, abbiamo presidente e direttore di Amnesty Turchia sotto processo per terrorismo, c'è una legge in Ungheria che rischia di far chiudere Amnesty International, in Egitto le ONG sono state ridotte al silenzio, i difensori dei diritti umani in Colombia decimati, quindi c'è un'offensiva globale contro chi si occupa di diritti umani, che poi a livello dei singoli paesi produce questo effetto che conosciamo ahimè bene anche in Italia, cioè che i diritti non sono più per tutti, ma sono i diritti di una maggioranza che si sente più sicura se si tolgono diritti alle minoranze, e allora non stiamo più parlando di diritti ma di interessi o privilegi.